Luca. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Cari affezionati telespettatori, buon Natale! La puntata odierna di Ed ecco a voi, che andrà in onda fra 3 ore, non sarà soltanto una passerella di personaggi straordinari. Assieme ai complessi più moderni si esibirà anche l'orchestra dei Guru. Che fortuna che ha avuto quella lì! Ha fatto subito carriera, l'amica del direttore generale. E per la prima volta ci sarà la piccola banda composta dai 7 fiati più vecchi d'Italia. Ecco, li vedete al loro arrivo al nostro studio. Sommando una dopo l'altra le loro età, arriviamo a 620 anni. Si può ben definire la banda dei centenari. Vuole dire sì o no? Subito dopo la loro esibizione ci sarà l'ex don. Non so se si può chiamare l'ex don. Ma io non sono un ex don, sono ancora un don. Ma cosa dice quella lì? Che ha gettato alle ortiche l'abito talare per realizzare il suo sogno d'amore con una donna conosciuta 2 anni fa. Io devo dire che non sono un grande appassionato di cinema, non posso essere chiamato un cinefilo, ma rimasi fulminato dal film di Federico Fellini, Ginger e Fred. Avete sentito uno stralcio? Era un film che aveva dietro era la punta diamante di un grande contrasto. Era l'anno 85, era l'anno in cui c'era l'esplosione del fenomeno palpabile della TV commerciale, i grandi programmi popolari. Federico Fellini si manteneva su una posizione di attestata difesa del fatto che comunque i film trasmessi in televisione non andavano interrotti dalla pubblicità, e quindi fece un film che poi fu un film che precedette un referendum. Gli italiani fecero un referendum per capire se volevano i film interrotti dalla pubblicità e dissero di sì, vinsero di sì. Gli italiani amavano interrompere l'emozione. Non si interrompe l'emozione, era la frase di Fellini, vuol dire un film, qualcosa, è un tempo sacro in cui l'uomo non può mettere mano. Tornando a Ginger e Fred, una storia fantastica, voi la ricorderete, parla di Amelia Bonetti e Pippo Botticella, che erano due poverini che si guadagnavano il pane a fine anni 40 facendo l'imitazione di Fred Astaire e Ginger Rogers. Venivano ripescati dalla TV commerciale come fenomeni, come casi umani, venivano ributtati in un set televisivo. Beh, io ne approfitto oggi perché sono 30 anni che esiste Ginger e Fred, ma me ne sono ricordato per puro caso perché mi hanno chiamato a Rimini, ci sarò domani a una manifestazione, si chiama Cinema sotto le stelle, nel centro storico di Rimini, alle 21:30 sarà proiettato con grandi onori Ginger e Fred. Io dovrò dire qualcosa, siccome non mi sono preparato lo faccio in questa trasmissione, domani dirò esattamente le stesse cose. Cos'è che mi sconvolge e mi sconcerta? Mi sconcerta che da Ginger e Fred cinematografico, che ho vidi e seguì la vicenda, mi piaceva, in quegli anni già mi occupavo di critica televisiva, quindi ogni giorno guardavo e osservavo la televisione, sono passati 30 anni, esattamente lo stesso tempo che è passato da quando i Ginger e Fred e Mastroianni Masina si producevano nella loro fittizia realtà, quindi quando loro andavano in giro facendo Ginger e Fred, quindi i primi anni del dopoguerra. Venivano recuperati dalla televisione della metà degli anni Ottanta come delle reliquie, sono quasi dei cadaveri, infatti Mastroianni finito, alcolista, lei una brava nonnina, lontano dai fulgori di quella che poteva essere il trash, cioè l'emulazione di un fulgore che a sua volta era l'emulazione di un mondo che non esiste, i ballerini di Tip Tap. Beh, esattamente lo stesso tempo. Noi guardiamo a distanza di 30 anni quella televisione, è la televisione di oggi. È cambiato il mondo da quando si producevano i Ginger e Fred fittizi alla televisione commerciale, ma non è cambiato il mondo negli ultimi 30 anni, cioè dagli anni in cui quella televisione mostrava le caricature di Ginger Rogers e Fred Astaire. Beh, questa è la riflessione di oggi. 800 24 00 24, da 30 anni la TV è sempre la stessa. Amelia Bonetti, nome d'arte Ginger, è sposata, signora? Parli qui, prego. Shh, sono nonna di 2 bellissimi nipotini, Luisetta e Paolino, tutte e due sempre lì attaccati alla televisione. Ah, la nonnina danzante, complimenti. Lei e il suo partner Albert Light imitavate i famosi ballerini. Attenzione, bisogna sapere però che Albert Light non è il suo vero nome. Lui si chiamava, si chiama Pippo Botticella. Ma imitavate i famosi ballerini Fred Astaire e Ginger Rogers. E come no, era il pezzo forte del nostro show. E da quanti anni ha smesso, signora? 20? 25? Coraggio, più ne confessa più questo ritorno fa notizia. Ah, non deve davvero convincermi, sa. Ai nostri tempi eravamo molto, ma molto popolari. Anche oggi a Santa Margherita, dove abito, qualche volta mi fermano perché si ricordano di noi. E perché ha accettato? Non ha paura di correre il rischio di deludere i suoi vecchi fans? A essere sincera, mica lo so perché ho accettato. Ma forse per far contenti i nipotini che hanno tanto insistito, gli amici. 800240024, si va in televisione per far contenti i nipotini. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno a tutti. Hai riflettuto anche tu su questo fatto? Mi sembra assurdo che il film, che è del 85, celebra come una cosa lontanissima un evento di 30 anni prima, e sono passati 30 anni, ma noi parliamo di una televisione che è identica a quella d'oggi, fantasticamente realizzata con la raffinatezza di Fellini, ma è sempre il grande circo dei mostri, identico a quello che vedi oggi. Metti un conduttore contemporaneo al posto del conduttore che allora mise Fellini, è esattamente la stessa televisione. Io in realtà, Gianluca, ci trovo un mutamento antropologico, perché Fellini omaggia l'attore avant spettacolare di questi due imitatori di Ginger e Fred, però questi avevano un talento, sapevano fare qualcosa, sapevano ballare il tip tap, si producevano davanti a platee che ti tiravano gatti morti e cadaveri e cianfusaglie varie se sbagliavi. Quindi quella corda di pericolo la vivevano e portavano in televisione questo talento. Oggi gradualmente, in questi 30 anni, si è assistito a quello che profetizzava Battiato nella canzone L'Esodo, cioè si salva chi non ha voglia di far niente e non sa fare niente, ovvero il reality. In fondo questo scarto in parte c'è stato rispetto a quello che già, di cui già ravvisavo. Sì, sì, quello qua, allora non esisteva, siamo d'accordo, ma quel genere televisivo che è il contenitore televisivo, che sono le domeniche in, le buone domeniche, i programmi della sera in cui i più stantii personaggi partoriti dalla televisione si mascherano da personaggi celebri, tali e quali, Sosia, mi sembra che poi dopo i format non hanno più nome perché sono sempre della stessa matrice. Comunque sia, il principio era portare a una ribalta funzionale soltanto a vendere dei prosciutti, a vendere dei prodotti, a comunque solleticare dei consumatori, delle storie che in sé hanno il paradosso, il santo, il vecchio, il frate che fa miracoli e vola. Ma oggi quante televisioni sono fatte su questo? C'è l'ennesima serata Padre Pio, quante televisioni ormai non fanno altro che ricercare vecchie glorie e le ripropongono. Ma io ho visto apparire un Pippo Baudo una serata televisiva che sembrava il fantasma di se stesso, che ancora faceva le imitazioni, presentava Albano e Romina, ma l'abbiamo fatto una trasmissione assieme. C'è stato uno scarto. È verissimo, cioè, e sono d'accordissimo con te sul discorso della copia che viene ripetuta all'infinito. Forse anche il pubblico della TV generalista è anche un pubblico mediamente anziano, quindi ha bisogno di questi impulsi. Sul discorso dell'interruzione dell'emozione, la parcellizzazione delle emozioni oggi la viviamo sui social network e sulla fruizione dei film in clip di YouTube. Ormai i film interi, anche la nuova generazione tende a guardarne sempre meno, a guardarli fuori dalla scansione rituale della televisione. Persino la scansione rituale della televisione si è perduta, che almeno recuperava con la condivisione unanime, lo si vede tutti alla stessa ora del lunedì film. Sai, Giuseppe, io ho riflettuto anche su questo paradosso. Ieri sera, quando avevo deciso di parlare di questo tema, sono andato a vedere su YouTube Ginger e Fred e dico, vedi, Fellini non avrebbe mai immaginato che il suo film è comunque spezzettato in alcune tranche decise da chi l'ha messo online. E insieme a Ginger e Fred c'è un'intervista di Fellini che va in televisione al Grand Hotel e parla con Pippo Baudo, dice: sai, ancora meraviglia vedere che c'è il Grand Hotel, per me è il set dei miei film, e ho questa sorta di stranezza e stranità di vedere un set del mio film che in realtà è un posto reale. Certo, infatti quello è il tempio del suo immaginario, a Rimini tuttora c'è questa sorta di costruzione che però la televisione impoverisce comunque, cioè quello che trasuda da Ginger e Fred è una sensazione di mestizia, di luci al neon, di si perde quello spettro di autenticità che nei suoi sogni, nel suo onirismo lui aveva comunque portato, e questo oggi non so se gli farebbe piacere vedersi nei mille rivoli della rete a lui. Bisognerebbe avere la percezione dell'intero per godersi il frammento, però l'importante è non partire dal frammento, secondo me, questo è triste. Allora, 800 24 00 24, siete d'accordo con Sansonna che in realtà la televisione è mutata radicalmente negli ultimi 30 anni? Seguite un pochino più il mio pensiero, che fondamentalmente come grande mercato comunque di prodotti in cui bisogna prendere materiale umano al minor costo possibile, quindi più sfigati sono e meno costano e quindi più massimalizzano l'investimento, più o meno la televisione è quella che aveva pensato Fellini 30 anni fa come paragone negativo rispetto al mondo del cinema. E quello Fra Gerolamo di Trivento, vero? Sì, ha salvato mia madre che stava per morire. Io sono andata da lui solo con una sua fotografia. Lui l'ha appena toccata e la mamma a casa è guarita. Al suo paese sono in tanti quelli che dicono che quando prega davanti all'altare certe volte si solleva da terra e raggiunge il crocifisso che sta in alto e sospeso sotto la volta. Volare, pronto il cappuccino. Quello lì che sa con lui è uno scienziato, è un parapsicologo. Sono le migliori. Va bene questa? Ma non la carta rose. Perdoni la mia meraviglia e un po' di incredulità, ma è vero che vola quel fraticello? Può accadere, accade. Ah. È la levitazione. Caso raro nel mondo. 800 24 00 24, parliamo di TV, parliamo in occasione del trentennale di Ginger e Fred, il film amaro di Fellini che descrive il mondo della televisione come il mondo della barbarie che si divora come fosse uno spietato cannibale quelli che sono i personaggi che in realtà il cinema può rendere eterni. Mi scrive un ascoltatore, dice: la scelta è nostra, basta di guardare certe porcherie televisive, gli italiani sono scimmie ammaestrate. Giuseppe Sansonna, c'è una fase in cui Fred Astaire alias Mastroianni alias Pippo Botticella, sarà cambiato il cognome, completamente ubriaco, fradicio, una scena patetica, una devastazione umana, mentre la Gravina mantiene la sua dignità di brava nonnina. Fra loro c'è stata una grande storia d'amore che lui nemmeno più ricordava, capito? Dice: questa sera voglio fare il grande colpo, la tipica cosa del nessuno che c'ha davanti una telecamera. Dirò agli italiani: siete dei pecoroni, dirò a tutti pecoroni. Poi in realtà farà una figura pessima. Un po' anticipando anche le prediche celentaniane, se vuoi, no? Il profeta e la mistica che anche in questo frammento che abbiamo ascoltato si sentiva questa evocazione del predicatore, del guaritore che vola, come San Giuseppe da Copertino, no? Ma anche la santità intubata nel collettore catodico diventa minuzia, diventa uno spettacolo squallido però. Cioè guarda che tuttora, Giuseppe, i programmi che hanno maggior successo sono quelli a base miracolistica, sono le rassegne dei miracoli, sono le serate dedicate ai fenomeni paranormali, sono le scoperte di Giacobbo all'interno della grande piramide. Esiste. Poi Fellini era molto sensibile a questo mondo, a un certo punto nessuno avrà capito forse, ma c'è una madre che parla col registratore, con le anime dei morti, la fa sentire. Fellini questo faceva, lui aveva un forte senso di curiosità verso il mondo dei trapassati. Ecco, la televisione del paranormale rimane come elemento forte, chiave anche delle rappresentazioni moderne. Fermo un attimo, andiamo con il traffico, poi riprendo con Giuseppe Sant'Anna. Melog, cronache meridiane. Prego, prego, comodi. Voi state lavorando e io vengo a disturbare. Presidente, lei ci fa un grande onore. La ringrazio a nome... E chi? Signori, abbiamo la visita del presidente. Abbia la compiacenza di seguirmi, prego. Se mi permette, le presento il sindaco di Borgosole. Ah, questa signora è la moglie del proprietario di una mucca fenomeno che ha ben 15 mammelle. Ma Fiorenzo, come? Ma no, ma no, 18! Ed è già giù in sala trasmissioni. Presidente, la puntata di oggi ci è costata un po' di fatica, ma è proprio... Ma bravi, bene. Sì, sì, desdot. Borgosole? Sì, 8.000 abitanti contadini e artigiani che fabbricano pipe e tappi artistici. 800024, così Fellini immaginava la televisione, i suoi limiti, le sue nequizie nel anno 1985, ma io di fronte alla mucca con 18 mammelle ricordo l'ultimo Sanremo, la famiglia con 15 figli, ci fu comunque sia, può cambiare in qualche maniera la rappresentazione, ma la parte dura, sostanziale del format televisivo rimane sempre quella. Ricordo questo fu un film che, da cui poi il cui slogan non si interrompe un'emozione, quando poi in realtà era uno slogan non molto profetico, perché oggi le nostre emozioni sono tali proprio per che interrotte, interrompibili, frammentabili, fu lo spunto per un referendum che ci fu una decina di anni dopo, in cui gli italiani furono chiamati, come ho già detto, a pronunciarsi. Volete l'interruzione degli spot televisivi o no? È assurdo che 15 milioni di italiani contro 12 milioni che dicono no, non la vogliamo, adesso sì, la vogliamo, ci sta bene la pubblicità dentro la televisione. Quindi era una battaglia di retroguardia, una battaglia già perduta, la pubblicità aveva il suo fascino, pubblicità aveva il suo glamour, e in questo anche Fellini, come ci insegna Giuseppe Sanzonna, aveva una particolare attitudine poi in realtà a farla la pubblicità. Ah sì, sicuramente, però ci metteva il mistero che faceva parte del suo linguaggio cinematografico, c'erano gli spot di una nota banca con Paolo Villaggio, con Fernando Rei, con i treni, ecco. Era la forza dell'estetica che è stata la forza primaria di Fellini a riscattare in parte la sua dimensione anche spottistica. Gli spot poi dopo sarebbero diventati qualcosa che no, doveva avere la stessa fotografia della brutta fiction, in maniera tale da non creare traumi visivi nell'ascoltatore, nello spettatore che guardava tutto con la stessa appunto ingordigia e si godeva appunto il messaggio pubblicitario. Addirittura invece c'era un picco di volume, c'è tuttora un picco di volume quando entra lo spot per richiamare, anche per risvegliare dal coma vigile lo spettatore televisivo. Lì c'era anche un'anticipazione con il famoso cavalier Fulvio Lombardoni, che in realtà era un sosia di Berlusconi. È che purtroppo non abbiamo potuto affrontare serenamente un dibattito sull'estetica televisiva nel nostro paese, perché è stato troppo connotato dalla dirompente e starompente presenza della politica, il monopolio, il padrone delle televisioni, il berlusconismo, il modello che passava attraverso la televisione era il modello berlusconista del bunga bunga. Ci sono state dette tante cose quando in realtà noi abbiamo ereditato tardi un modello di televisione che già esisteva tale quale, lo vediamo, la gran parte della TV dei canali satellitari sono programmi che ormai sono stati spremuti fino all'osso in altri paesi, e noi ci riarrivano, diventano ispirazione di format, la rappresentazione del quotidiano nel reale parcellizzato. Io sono appassionato dei programmi patologici, gli accumulatori seriali, quelli che hanno le malattie imbarazzanti, quelli che hanno le fobie, quelli che sono morti sfigati in maniere bruttissime. La televisione è questo, prende dei particolari e ne mostra l'aspetto grottesco e ne fa un format e li propina, ognuno ci si ritrova e va per soddisfazioni. Solo questi matti qui potevano ricordarsi di noi. Siamo dei fantasmi che vengono dal buio e nel buio se ne vanno. Hai proprio ragione. Sai, io mi racconto che l'ho fatto per i nipotini, che sono stati gli amici a convincermi per la matana mia. La verità è che avevo una gran voglia di vederti. Very romantic. L'unico momento della verità è quando la televisione si spegne, quando nel momento in cui stanno per entrare in scena vengono annunciati, iniziano la loro coreografia, si spegne la luce e loro parlano. In questa chiacchierata si capisce l'inconsistenza della rappresentazione televisiva. Giuseppe Sanzonna, da questo punto di vista, quale fu il valore che ebbe allora questo film? Solo perché ispirò un referendum che poi fu fortemente condizionato dal fatto che a favore degli spot pompava fortemente almeno tre reti televisive, anzi con un'altra appendice, quindi era soltanto, diciamo, la TV pubblica manteneva questa posizione fino a un certo punto, perché oggi la Rai spezzetta i film tale quale come gli altri. No, non credo, perché perché Fellini non era un animale politico, confessa la sua pigrizia più volte dal punto di vista politico, quindi a lui interessava fondamentalmente raccontarsi come anacronismo, come i suoi personaggi, e qui nella dimensione del buio, del blackout televisivo, del neon che si spegne, i due protagonisti, il suo alter ego Mastroianni, ritrova la dimensione claustrale di tanto suo cinema, di Mastorna, dei film non realizzati, ma di quel mondo antico, sacrale, che era il suo, una dimensione di irripetibilità nelle rappresentazioni anche avanspettacolari che lui si godeva da bambino. Certo, se dobbiamo fare un'analisi realistica e non contaminata dall'ideologia, diremmo che in realtà era una profezia che non faceva altro che congelare una realtà, perché non c'era, il mondo sarebbe andato in un'altra direzione, ahimè l'estetica sarebbe andata in tutt'altro modo. Nessuno oggi pensa che sia difendere il filmone tutto intero, ma molti, probabilmente la maggior parte delle giovani generazioni conoscono Fellini perché si vanno a vedere i pezzetti su YouTube. Carla, buongiorno. Buongiorno. Sì. Era la parola estetica che mi ha colpito. Perché? Mi ha colpito, e quindi volevo dire, probabilmente la parola estetica non va più usata. Perché? Per parte della televisione di oggi. Perché la parola estetica è stata cancellata completamente. Guardi che l'estetica è un concetto innanzitutto relativo, ampissimo, no, e non vuol dire soltanto cose belle, assolutamente. Ah no, beh certo. Diciamo cioè, che allora è cambiata completamente l'estetica. Lei attribuisce al termine estetico un termine moralistico, estetico, ciò che piace a me, che molte volte è sempre un piacere molto, molto piccolo e molto di piccola dimensione. L'estetica è un termine vasto e larghissimo, esprime tutto ciò che possiamo noi descrivere e che ci dà comunque delle emozioni, anche se emozioni negative, e le emozioni vanno interrotte in questo momento. Alla prossima.